Ciao Gianni, buonasera. Mi sto aspettando che parta Domenico, che stava facendo manovra. E anch'io sono venuto per quello, per fare compagnia a Domenico. Ormai c'è quell'appuntamento qua, al liceo, non dobbiamo mancare. E io qua mi stavo sistemando alcune cosette. E niente. Ho sentito Domenico che stava per partire e mi sono seduto qua davanti alla radio. Sì, ok, no, ma io lo so di sera quando sono qui, che Flavia partecipa sempre, diciamo, al viaggio e fin dove mi ascolta, hai capito? Niente, era sempre più quella di Osco. Ieri sera stavo con Roberto, stavo. Poi mi ha chiamato mio figlio, mi ha lasciato il collo del foglio aperto, appena. Erano in campagna, mia moglie con mamma e l'altro mio figlio a raccogliere le olive. Beh, questa roba non se ne sono accorti, si stava lavando la cara, siamo usciti ieri notte a aspirare acqua con gli stracci fino a tarda notte. Il tempo adesso bisogna stare molto attenti, non lasciare niente aperto, no? Io c'ho tutto chiuso, tutte le tapparelle abbassate, se no sporcano i vetri, l'acqua, e allora tutto abbassato, tutto chiuso, c'è un caldo allucinante, sono 24 gradi, si mettono i sifoni tutti accesi, si sta da Dio. Questa volta ho avvezzato la legna, è scalda e anche se ci devi mettere sopra, però avevo intenzione con mia moglie, dobbiamo fare un giro di conti perché mi prenderò da poco per lavorare con la scuola, di comprare una stufa a pelle con la ventilazione, ci riusciamo a scaldare un po' più l'ambiente, però mi sembra che costa sui 1.500. C'è tutti i prezzi, 1.500, 1.300, 1.200, ce n'era 2.000, 2.500, dipende da quante calorie la vuoi, capito? Dipende quanti metri quadri deve scaldare, se no ce n'è da 9, ce n'è da 12, a 18, ce n'è, bisogna guardare bene, informarsi bene. Ti capita, vai lì a Bancali, cerca il pannone di Air Comfort, che vendono appunto questo tipo di stufe e trattano anche bene. E infatti adesso vediamo qua un giro di conti, hai capito, del suono proprio. Da settembre non va bene nulla, sempre in spesa, invece ho pagato l'Intisi, ho pagato, mando il commercialista, quasi 700 e qualcosa, poi so, a fine mese la rata dell'Inter, del secondo acconto, che quella sarebbe quasi il 98% del reddito del 2010, dove avevo già acconto a giugno, e anche lì ho appena ammassata sui 1.300 euro, sarà. E quindi questo stipendio che ho ritirato se ne va per le tasse. Che è proprio, purtroppo è così. Io ci sono stato nei trasporti e certe mazzate che non viene bene a dirlo. E ti parlo di anni fa, quando ancora c'era la lira, quindi bisogna stare molto molto attenti. Prova a chiamare a Domenico, due secondi, mi sta chiamando mia moglie. Ok, aspetta, vediamo qui. Aspetta un attimo. meglio. Devo che la parola ti sento lontano, come? Ti sento lontano, aspetto che entri Claudio, così lui inizia a chiacchierare, piano piano ti avvicinerai. Parrocchia, piano piano ci avviciniamo, dai, ci avviciniamo piano piano. Ti sento, adesso non riesco a capire ciò che stavo dicendo, comunque sento che sei in modulazione, che sei in movimento e noi siamo qui pronti. Parrocchia, dai, piano piano ci avviciniamo, dai, quasi via l'Italia. E questo compiato che sei quasi via l'Italia, non è quindi... iniziamo a percepire la modulazione, diciamo più, vai avanti e diciamo che mi hai detto fino a dopo altra che riesci a ascoltarmi, quindi hai capito, rimaniamo tutto orecchie, Claudio ancora non lo so se è rientrato, io lascio un attimo di bianco e poi riprenderà se c'è. Ok, riprendo io di nuovo. Ok, mi ascolti, quindi noi. Appaga, dai, riguardo via l'Italia, adesso mi ti ascoltate anche meglio io, dai. Mi ti ascoltate, dai, c'è un macchinetto della mutua per quello che hai visto, e allora non è che mi ascolta, ma è parecchio, ma non dico lì, diciamo, come vediamo, fino a quando mi ricordo, non devo tenere pazienza. Ok, noi accettiamo tutto anche i paracchini della mutua, anche io. Ho iniziato con un baracchino della mutua, rimpiango invece, come che non ce l'ho, ho proprio il caso di due, che forse l'abbiamo buttato via per sbaglio, un baracchino che aveva pochi canali, poi avevamo fatto la quartiera esterna, e andava bene, però un rimpiango, perché c'è adesso un pieno di apparati, però è sempre come il primo amore, non si scorda mai, come. Sto guardando sempre su Twitter se riesco a trovare qualcosa, lo compro subito se lo trovo. Sì, dai, sto entrando in buca. Ok, perfetto, ho capito. Sto entrando in buca, come si chiama? Ci sei là? Sì, un secondo, arrivo subito. Immagino rimane sempre in zona per voi, così come stiamo modulando con te, capito, qualche volta moduliamo anche con il vulcano, tutto lì, poi diciamo non è che c'è tutta questa grande ruota, mi comporto solo se con Sandro ci ascoltiamo senza attaccare niente, quindi va bene così, poi rimangalo me nello scaffale dove l'ho messo, riprendila. Infatti è così, va bene, mettila, vai, fra un po' è pronta la cena. È così, già va bene, giusto per fare due chiacchiere, è più che sufficiente. E se sono quattro anche meglio. È meglio. Se sono quattro cosa? Di chiacchiere. Ah, e anche se sono cinque. E allora non c'è problema, figurati. Niente, sono le 30 adesso, là. Adesso aspettiamo a mangiare un bocconcino e venire a letto. Thank you. arrivati fino ai 40 canali all'epoca, anche se i baracchini erano come di 3. L'aveva fatto un 28 canali, aveva, me lo ricordo benissimo. Poi mi ero arruolato, quel baracchino lo avevo messo da parte, quando sono rientrato l'ho comprato un pacchi 123, poi di ferrata durante un trasloco che papà ha fatto la casa nuova, lì è stato buttato perché non l'ho più ritrovato, ho frugato tutti gli scatoloni, anche da poco mi soffitta perché c'è tutta la roba, non lo so, è stato buttato in quel mezzo a qualche cosa e non l'ho più ritrovato e niente, poi c'era in pace all'epoca dove andavano tutti alla GBC, andavano, allora c'era questo signore, mi ricordo che era un signore bello piazzato, non mi ricordo il nome, signor Gino mi sembra si chiamava, se non vado errando, e lì tutti entravano, andavano molte volte a mesi a comprarmi due quarti adesso, due quarti poi per riempire quella quartiera esterna e vedevo che la gente comprava questo tipo di microfoni che l'ho visto a prendere, che ci mettevano la batteria ed erano i turner manuali, hai capito? Adattavano quelli di scusso, allora c'era il Tokai, tutti questi tipi di cose, però io portafoglio diciamo zero non potevo andare oltre. Era molto, ci riuscivo ogni mese a guardare un canale, hai capito? E niente, e ci si divertiva con poco, senza usare tutti questi lineari che erano, c'erano a casa gente che ce l'aveva, ma stiamo parlando di gente allora che ci aveva i soldi, vieni. Io, questo che è il primo baracchino, allora c'era Pinto le scarpe in via Capurbano, guarda che l'aveva pagato più di 80.000 lire e c'era 5 canali. Stavano, mi sembra, 10, però diciamo come stadio finale, come radio era buono, non è che aveva pochi canali, aveva pochi canali, però come uscita era, sparava che non ha cosa bene la modulazione, perché io avevo avuto modo di fare modulare da casa, ero andato a provare una sera da questo mio amico, la di 91, e l'avevo sentito, guarda, aveva una bella radio, era bello, proprio anche, hai capito, tutti mi davano degli ottimi controlli, solo che il male suo che aveva pochi canali, però come cosa era fatto bene, con componenti come si deve, e niente, non pigliava colpi, e colpi di splatter non li pigliava perché era preciso. Poi c'era l'altro, il Catalina, che era preciso, non parla, a 23 canali, però la struttura era la stessa, infatti i colpeschi del K2 erano precisi a quelli del Catalina, la struttura, solo che quella lì c'era il commutatore di canali, e però quello lì, tu accendevi, era come se non ci avevo parlante, muto, la prima cosa di modulazione diventava una bomba, non so che circuito non sta valendo, però a me uno me l'aveva portato e sembrava squelciato, era molto, che sembrava che lei era stato parlante. E quello mi aveva anche affascinato, infatti ogni tanto c'era un infermiere di Fluminera che ce l'aveva, me lo prestava perché ne ero affascinato. Questo era il Catalino sempre delle serie come. Benissimo Domenico, buon proseguo anche a te e domani sera, senz'altro, ci ritroveremo qui a fare un'altra, diciamo, chiacchierata e farti un po' di compagnia. Buon viaggio e a domani, ciao Domenico. Prego. Sì, avanti. Sì, buonasera, allora, stavo ascoltando, sono entrato un attimino. Prima di andare a mangiare sono entrato adesso, ciao Gianni, ciao Domenico, ti sento piccolino, non so dove sei arrivato, comunque ti saluto, ho capito che stai chiudendo, ci sentiamo in altre situazioni, ciao ciao, buon viaggio e buon tutto. Stava rispondendo al telefono, buonasera Roberto, nel sentito, e ieri sera scusa, te l'ho detto, che ti ho lasciato così, siamo stati un po' di ore raccogliendo acqua per non per una sbarazzaggine, però ho sempre detto da quando c'era mamma, controllate quella roba del porcicolo che non incassava bene, magari ieri non c'era nessuno, si sarà aperto, poi sono rientrati tardi e nessuno se ne è accorto che è proprio l'ultimo coso che vanno a vedere. l'acqua bisogna stare attenti, dai. Anche io ho brutta esperienza, dai. Bisogna stare per con gli occhi aperti e con le orecchie aperte, perché a volte anche il rumore dell'acqua è strano, devi stare molto attento. Ok, comunque già ne ho fatta anche oggi di acqua, non ti preoccupare. Sto facendo, io sono affacciato perché è stato mio figlio grande, aprile, ma stavo facendo proprio per fare, ma meglio se il tempo suo non vede faccia, che faccia, hai capito, che le stagioni facciano giuste, già ne abbiamo sempre bisogno di acqua. Sempre con moderazione, senza esagerare, perché l'acqua ne abbiamo bisogno, ma non allagamenti. E quello qui da poco, hai visto, in continente quante cose sono successe, robe, hai capito, e quante strane, quante cose che si scappano, non il morto, si scappano i morti, e hai capito, e non so come sono po' bene, perché non è a vederle sulla TV, e a viverle di persone. Non so, purtroppo. Diciamo ci sono zone un po' per critiche, disagiate, poi con queste cose, speculazioni edilizie, nel senso che costruiscono in zone dove non si potrebbe, creano ancora più problemi di frane, eccetera, eccetera. Ok, vediamo intanto se nel canale 10 c'è qualcuno in compagnia di Roberto da Sassari e Gianni da Muros. Vediamo chi vuole entrare qua, buonasera. Misma. Riprenda, cosa sta utilizzando Gianni per curiosità? Il solito che cosa? No, sto utilizzando un ricchito, sto utilizzando col microfono della Ox, in quello che è simile alla Donis, in 508, sì. Tanto ho detto usare, però lasciarlo qua, detto Claudio, fermo, certo, si potrebbe danneggiare, però si danneggerebbe se lo lascio un anno fermo, no, faccio anche l'ala 78, sempre da come si chiama, piccolo piccolino, ma adesso c'era questo. E me ne sono seduto qui al tavolo, giusto per farlo funzionare un po'. Ok, ma potrei anche usare l'altro, non c'è problema, mi ascolti bene, lo vedi? Sì, segnale molto forte, radio 5, niente da dire. Ma perché anche ho sentito una specie di suono stavolta, non so se stavo sognando, e avevo lasciato l'antenna che di solito la staccano, lo vedi? Questo non è che qui ha danneggiato qualcosa, no? E subito l'ho acceso di pomeriggio, mi ho fatto una chiacchierata con Claudio, così, e c'era anche poc'anzi che avevo andato a fare carica. E niente, ho visto che funzionava tutto bene, che ho controllato infatti, che era tutto roger. Comunque la notte io per sicurezza cercavo dell'antenna e l'alimentazione del sacco. E non fai male, sicuramente io molte volte mi capita di alzarmi la notte, siccome c'ho un sacco di antenne, commutatori e diversi apparati, e diciamo di massimo non sono sempre attaccato, però quando vedo ci sono temporali, e prima almeno quando me ne accorgo stacco tutto. Però c'è da dire una cosa, che se entra, se così sfortunato ti entra il temporale, c'è il temporale, e il fulmine dentro casa, nel cavo d'antenna, anche se ce l'hai attaccato, ti scioglie quanto ce lo sai, quanti milioni di volte sono, è una cosa assurda, ti fa un danno che neanche ti immagini. Non me lo dire, no, io ce l'ho in camera da letto, questa roba si ammazza. Si ammazza addormentati, lo meno. Non me lo dire, no. È così, sono migliaia di volt, migliaia, milioni di volt, centinaia di milioni di volt e centinaia di migliaia di ampere di intensità di corrente, per cui se tu, è come che ti metti vicino a un palo di alta tensione che sono 300.000 volt, fatti il conto, qua c'è 300 milioni di volt, mille volt di più è una corrente molto, ma molto superiore, per cui si propaga vicino, se ti scioglie tutto l'impianto lì, tutto quello che c'è vicino di metallo, di cose del genere, diventano dei conduttori. Io ti scioglio quanto c'è. Infatti allora se sono tutti questi milioni, quindi mi faccio condannare alla serie elettrica. Non mi mettere paura che è nel strato tutto, se ce l'ho proprio in camera, no, non è mai accaduto nulla, diciamo, però non si sa mai, io qualche volta quando almeno tu le immagini possono accadere come succede da tante parti, non lo so se la mando va a tirare il fulmine io. La tieni presente, non è tanto la mantova o chi per lei, qualunque oggetto, che fuoriesce, diciamo, oltre una certa altezza, attira il fulmine. Può essere un albero, una canna da pesca, un palo di telefono, una qualunque cosa che supera l'altezza, per dire, di qualunque tetto. Quello lì è un rischio per attirare il fulmine. Tiene presente però che c'è da dire, è un caso talmente raro, non so quanti milioni di possibilità ci sono che venga a cadere il fulmine proprio sopra di te. È una cosa rarissima, deve essere talmente sfigato. Perché i fulmini, se ti cade a 200-300 metri di distanza, l'esplosione ti disintegra a casa, dallo scoppio. Per cui tu quando senti un fulmine che sembra fortissimo, normalmente è a qualche chilometro di distanza. Sì, infatti, è meglio che non accada mai, perché a questo punto, e se no, hai capito. Se mi stai dicendo queste cose, manco l'antenna, sollevo col palo. Hai capito, e... Oggi ho avuto una giornata un po', diciamo, movimentata, domani non c'ho neanche le medie, che si sono presentate in questa scuola, le, come si chiama, le, diciamo, hanno trovato degli alzari, devono venire a, diciamo, questa ditta per levare via questi cosi di appie, perché ce n'era uno, poi l'hanno levato, come all'acido di riscaldamento, dopo se ne sono presentati altri, adesso per due giorni rimane chiusa la scuola media. Stavo pensando a questa roba, ho detto chissà quanto ce ne possono fare, ma fanno in fretta queste cose, eliminarvelo, queste ditte. Guarda, guarda caso, ti posso rispondere, ho proprio sentito oggi una trasmissione alla radio quando stavo camminando, stavo rientrando, anzi andando, non rientrando, e si parlava proprio degli alveari. Il periodo migliore per eliminare gli alveari è proprio a, diciamo, la stagione invernale, perché tutte le api sono morte, rimane solo l'ape regina all'interno che... e con le larve, e basta, per cui è abbastanza semplice toglierlo, basta, lo puoi fare anche tu, una persona normale, spruzzarli dei detriti e muoiono, muore immediatamente la cosa, l'ape con tutte le larve. Il diverso è se ti capita nella stagione dalla primavera in poi, diciamo la primavera in poi, a noi ci è capitato proprio questa primavera, c'erano migliaia e migliaia, un alveare enorme, abbiamo dovuto chiamare i vigili del fuoco, sono venuti con questo apicoltore, ha preso la peregina e ha fatto tutto, tutto in un attimo, sono entrate tutte appresso a lui e l'ha recuperato. Ma tu devi vedere, ne sono preso, ne è passato anche l'altro, siccome sono ricercate queste api per la coltivazione, per la produzione del miele. Dopo un po' ne è arrivato un altro, si sono bisticciati, toccava a me, deve essere, c'hanno i turni, tipo come fai con i becchini e cose del genere, all'ospedale. E la stessa cosa è successa per questo, si sono bisticciati perché diceva l'alveare lo doveva prendere, era enorme, ci saranno state migliaia di api, era una cosa da vedere. Oscurava a fianco all'officina, ho visto che c'è l'officina io, il muro dell'officina di lì, c'è un albero, un pino di lì, era una cosa allucinante, nostra proprietà, e sono venuti e l'hanno liberato immediatamente. Ci hanno messo un paio di ore, perché bisogna farlo la sera questo, e con il fumo, non so come cavolo abbia fatto questo qua, con del fumo ha preso la peregina e poi ha risolto tutto. Ah, quindi gli altri atti non ce ne sono, ho sentito stasera perché mi è stato comunicato che domani non c'era la scuola e lo so domani per questa roba. Buonasera! Sì, buonasera. Non ci sono tutte queste api che potevo immaginare, quindi. No, questo è stato un break. Le api della stagione fredda muoiono subito. L'unica che rimane è la peregina ed è l'unica che rimane all'interno dell'alveare. Ormai sono tutte morte. Rimangono le larve che piano piano crescono e poi nella bella stagione si sviluppano. Adesso facciamo entrare la persona che ha chiamato, che ha detto buonasera avanti. Buonasera a tutti. Ma tu eri lui? Chi era? Ci ho sentito il bip. No, bip no. Il beppe sono io. Antonello, tu sei? Eia, ciao, buonasera. Allora, infatti, venne alle due dei segnali, era un pochettino più forte rispetto a Luca come segnale. Ok, buonasera a tutti, c'è Gianni, vi lascio Capri per farvi salutare. Avanti Gianni. Ok, ciao Pompugno, ciao Luca, buonasera. Sono un pochettino di api. E niente, ho messo solo quelli. Diciamo che producono miele e gli dicono ma lasciatele, così ci abbiamo il miele a molto fortuna. Ho parlato con la preside, ho parlato e come se dice notte, infatti mi stava parlando proprio in primavera di queste cose, che poi si è fatto a qualche bambino che allergico, no, meglio che provvedano, perché la scuola è fatta in coda prefabbricata. attaccata a quelle, c'è quel, come si chiama, quei pannelli copritolaio, non so se, se sono di alluminio, di cosa sono, gli hanno fatto di, come si chiama lì, di questi alveari, no, no, meglio che con quello non vede, che la punta del latte è una cosa anche velenosa, secondo anche allergico, può provocare anche la morte, come è successo qui vicino al mio paese, con tre punte di api uno è morto, uno è morto, però sai chi forse Antonello ne avrà sentito parlare, era il cognato di Andrea Manicomio, Antonello. Credo, non lo so chi è, il cognato di Andrea Manicomio, adesso non ce l'ho presente, il fratello non mi ricordo, il cognato, boh, la verità non me la metto, vero? Ma il marito della sorella... Abbassa la radio. Il marito della sorella, insomma, il marito della sorella, parlo di parecchi anni fa, questo qui è andato lì in questa campagna, c'era questa alveare, tre morti di api, mi sai che erano quattro, morto, morto. Allora abbassa la radio, sei troppo alto. Era proprio... Facerato. Punto qui, quelle tanti anni fa, diciamo, sono cose delicate, e quindi c'era questo problema, domani che viene questa vita di disinfestare, a levare questi alveari, infatti se l'ho saputo all'ultimo momento che ero in contatto con la preside, poco fa. Ok, riprendi Luca, buonasera di nuovo. Ciao Gianni, ciao Antonello, ciao Roberto. Claudio non c'è. Ce l'abbiamo fatto a cenare, stavamo facendo un po' di compagnia a Domenico, che poi Domenico ha curato il telefono, però l'avevo già accompagnato per un bel po', detto noi la sera siamo il capo tatticone, che si chiama, come si chiama, la partenza di Domenico, qui da Domenico, piano, è andato a fare il carico, ecco, che magari dopo riprendiamo a modulare, a te ancora Roberto, ti metto il cambio, vai. Sì, sì, no, no, stavo dicendo, dottore, sei un po' troppo alto tu come livello microfono. Alto? Sono a 4, so. Così sono alto, così sono a 10, come metti più 4, guardate, così, e invece sono a 3. Va bene così? Per me sei ancora troppo alto, a parte sento tutto quello che c'è intorno, televisione, gente, fischi, tutto quanto su di te. Dovresti abbassare un peluzzino, ma perché non lo fai? Ma così, ma buona raga, a 2. Dai, va il microfono a 2. Così se non alzi troppo la voce va bene, anche se sento gente vicino, la televisione, non lo so. Comunque adesso va bene, dai, non ci sono problemi. Esagerato. Se qualche televisore, ho preso le cuffie adesso. Sto provando a fare la voce, non è che stiamo parlando a voce alta. Tu. Vabbè, microfono a 2, l'ho usato. Che vergogna, che vergogna. Questa cosa è un MD più 4. Sì, è un MD più 4, sì. Ti ho cambiato la capsula, gli ho messo la capsula del citofono, del videocitofono, per sapere. Non pensavo di abbassare così, cioè di dover abbassare. Una bomba comunque, questo microfono è una bomba, veramente bene si sente, bella chiara la voce. Vediamo un po', fai un altro passaggio e vediamo un'altra cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetta, bellissima radio. Ok, chiedi anche conferma a Luca. Da parte mia 10 e lode, bellissima radio. E io so che sconferma, è tanto Luca stasera. Sembra che riesca bene. Devo darne anche una a Luca di queste capsule. Adesso la mia piace nel garage, la stacco e gliela metto da parte. Mi scendo sempre la via perché ci sono altri di queste cupe, ci vorrebbero essere altre di queste circuiti di quel tipo di capsula, bisogna che io recupero così, anche se sbaglierò, c'è problema, se sbaglia un po' questa cosa, va bene, va bene, va bene. Luca, penso. Avanti Gianni Capri, dimmi un po' tu come ascolti Antonello dalle tue parti, dovrebbe uscire anche dalle tue parti bene, dico. Ma ti dico che non si direbbe che ho un microfono in mezzo più 4, guarda che modificato così sembra un microfono della Turner, ha delle ottime caratteristiche. Da bambino sì, il vecchio si tocca un fuoco, non so se parla con lui, della capsula che c'è a Puglia, che c'è il campanello, oppure di quella che c'è al telefono dentro che risponde da casa, e domani la stacco. No, la capsula, quella che si usa per parlare, nel videocitofono, quella piccolina che montano anche le metro, tipo le metro 100, là. E sembra già funzioni bene. È la capsula del videocitofono, siccome ne ho 4-5 di questi videocitofono che ho recuperato io un po' di tempo fa, sarà 2-3 anni fa, però circuiti uguali, ne avevo provati 5-6, li avevo regalati. Oggi l'ho fatto la prova, staccato per provare un po' se c'è una buona differenza da una capsula all'altra, sempre questa qui è forte un bel piccolina, non è di quelle capsule tipo quella telefonica, cioè qui mi nutre della stacchi dal citofono c'è fuori, questo è proprio il video citofono, poi c'è in casa la cornetta. Ok, andiamo a stanza, qualche cosa, se montiamo tutto. No, guarda, dico che siamo un microfono, gira, non me, è meglio di questo lo ando io, confermi. No, non ti voglio deludere, però è proprio così. E purtroppo, perché diciamo, sono due tipi diversi di apparati. Questo apparatino che sto utilizzando a coso è molto più largo, come modulazione, c'è un modulatore un po' più largo. Il tuo è un diverso tipo di apparato, è molto più stretta, per quello che ti strozza un pochettino le tonalità. Come ti ho detto prima, ci vorrebbe un equalizzatore per cercare di migliorare, come è riuscito a farlo Claudio, con quel tipo di apparati. Comunque, non per dirti, Antonio, probabilmente è una delle migliori che hai mai avuto. Tu. Con che apparato stai utilizzando? Con che baracchino? Il Galaxy tutto liberito è questo. Con l'MB più 4. C'ha ragione lui, sembra la modulazione di un tanner, veramente bella, ma gli ha fatto anche qualche lavoro all'interno, cosa l'hai messo? Vatta, cotone? Non ho messo niente io, ho fatto solamente la capsula stasera, non ho di molto nulla dentro. C'era una paio di ovatta che ho rimesso in basta. Tutto lì. Prima ho provato una capsula normale e poi gli ho messo questa qui del citofono, visto che c'è una bella differenza. La modulazione che era chiara, però non una voce bassa. E se non tre, figurati, se sollevo, guarda che tutta sera, sono bassa, andate mi dritto. Mi sto calcando l'apparecchio, ma adesso. No, Antonio, veramente è bella, quando è bella lo dico io, quando non c'ha difetti. Infatti, mi volevo chiamare a Luca. Luca, ci sei? Luca sta mangiando. E Luca, a livello dei baracchini, era una delle più belle in assoluto che sentivo qua normalmente in modulazione, a parte qualche caso particolare quando c'erano quei vecchi baracchini valvolari con tanne più tre, quella lì era un gradino superiore a quella di Luca, però parlando di baracchini normali a transistor, Luca è una delle più belle modulazioni in frequenza, con l'MB, la c'aveva Luca, l'M93 non me la metto nemmeno, usava via Antonio. Sembra che avevano più 4 o più 5, non mi ricordo la verità. Comunque già è uscito sempre bene Luca, non è che sia uscito male di modulazione. Io non pensavo la verità di essere così tanto amplificato. Comunque sta parecchio, ma l'avevo visto veramente bene. Nelle 2009 non si può proprio agganciare perché le comunicazioni dei cavetti sono diverse. Sarebbe fatto la prova di differenza da un apparecchio all'altro, da tutto al 2009. Dentro sono precise, solo cambia la comunicazione del film e basta. Capano va benissimo, bella radio, complimenti. Ok, avanti, capi, no, poi questo tipo di servizio che hai fatto, puoi dare qualche dritta a cosa? Chi è quello che non è cavapiedi con l'MB più 4, quello di Portottone, come si chiama? Sandro mi sembra, che non riusciva a farlo tirare fuori, la modulazione al suo baracchino. Comunque tu stai andando alla grande. Avanti di nuovo, capi, io rimango qualche minutino perché tra poco mi chiamano e devo andare a mandigare. Ok, Robert, io ho cambiato microfono, com'è questo microfono, Robert? Un po' meno forte dell'altro. l'altro, ma a livello di modulazione è più o meno uguale. Questo è un turner, di quelli senza amplificazione, è preciso, identico al turner Q2, mi sembra che Antonello glielo ho fatto anche vedere, però non c'è amplificazione, è un microfono della turner, preciso al Q2, dinamico, con la capsula dinamica, è nato così. Non sto dicendo quello, però non è squillante come quella di Antonello, con Antonello è più corposa, c'ha più tonalità, la tua non la posso valutare bene perché non è molto forte, diciamo è molto più bassa di quella di Antonello. Il mio non è amplificato il microfono è normale. Sì, l'ho capito, non pensare. Infatti sarebbe voluto magari un pochettino un po' più pompata per vedere come sale amplificandolo, però visto che non si può fare dovreste mettere un preamplificatore esterno. No, se poi non me lo costruisco, mio figlio affannato con questo che le fa le amplificazioni di microfoni per le pedagogie, ho detto fammene vedere uno di circuito, ho detto te lo faccio preciso, gli ho detto. E quindi noi è giusto per trovare, capito come andavano, robe, questo di dinamico, non più di tanto, poi microfoni. Quello che ti ho detto l'oxy, quindi è inutile stare generico, giusto per averlo, per dire che ce l'ho, per dire che ho capito. Comunque va bene lo stesso, uno o l'altro, di fronte a questo e i microfoni. Va bene. Quindi penso che c'è cosa da prendere oggi. Allora, così ho diminuito il watt. Ho detto qualcosa. Vabbè, siamo vicini, oltre che lo chiedo. Guarda, così sono al minimo del watt. E così sono la maletta. Parte mia non c'è manuda, 9:46, 9:40. Beh signori, a me mi hanno chiamato, io vi saluto, ciao Antonello, ciao Gianni, avremo modo di sentirci, non so dopo, probabilmente non ci sarò perché sarà già tardi quando finite di mangiare, per cui mi vado a prendere televisione e poi vado a dormire. Ok, comunque un piacere sempre come al solito ascoltarvi, ciao da parte mia, QRT, ciao Gianni e ciao Antonello, aspetto i salutini finali e ci risentiamo. Via, ciao, ci sentiamo domani. Senti, non c'è problema, parli bene, buon quinto e buon tutto. Faccio bianco anch'io che sto andando a bere un po' l'acqua, ci sentiamo di mite dopo. Che mi vento, dov'è? Usa niente. Ok, ciao Roberto.